palla ovale. Buon pomeriggio a tutti da Carlo Genta, Gigi Borghi in redazione, Fabio Cantadori in regia. Aspettiamo insieme Inter-Juventus di questa sera, partita della quale poi parleremo e sentiremo tutte le voci del caso, quelle della settimana che hanno preceduto questa gara. Ma intanto partiamo da, ovviamente, dall'Italia del rugby. La partita è finita da circa un quarto d'ora. Dopo un'occasione persa contro l'Australia, una lezione di combattimento e di tattica con l'Argentina, una pessima figura per l'Italia, almeno nel primo tempo, ma comunque un'altra sconfitta. Italia del rugby che cammina come i gamberi, ho l'impressione. 25-17 ci battono anche i guerrieri delle isole del Pacifico, che mai avevano vinto insieme con questa maglia, con questa selezione, una partita. Ci riescono oggi a Reggio Emilia, 25-17. 800-24-0024 invece è contatto, il nostro numero verde per intervenire. Messaggi 349-238-6666 e Giacomo Bagnasco in linea. Ciao Giacomo. Ciao Carlo e buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì, è stata un'Italia brutta, un'Italia confusa e poco convinta. È andata male, come dicevi tu, soprattutto nel primo tempo, concluso sul 22-10, ma la ripresa non è stata poi molto migliore. Si può dire che i guerrieri del Pacifico hanno difeso bene, hanno giocato con molta razionalità, contrariamente a quanto capita loro molto spesso, e gli italiani in sostanza hanno trovato la porta chiusa, hanno avuto una grande supremazia territoriale nella ripresa, però ne hanno approfittato solo in un caso con la meta di Mauro Bergamasco, arrivata a un quarto d'ora dalla fine su una mischia chiusa a favore degli azzurri, una giocata molto simile a quella che ha portato alla meta, altrettanto inutile ai fini del punteggio, Di Masi una settimana fa a Torino, l'uscita di Parisse dalla mischia chiusa, il passaggio all'interno per Bergamasco che è andato a segnare. Però la partita purtroppo aveva già preso la sua strada, l'aveva presa nel primo tempo, un primo tempo che è stato equilibrato fin verso il 20° minuto. L'Italia è andata subito sotto con una meta frutto di un mancato piazzamento difensivo, e questo è stato uno dei punti deboli della squadra azzurra, si può dire almeno in tutto il primo tempo. È andato in meta della Zau dopo che Bai, il mediano di apertura figiano, aveva scovato un angolo completamente scoperto dalla nostra retroguardia e lo aveva esplorato con un buon calcio. Gli azzurri hanno comunque reagito bene, è arrivata la meta di Ghiraldini al quarto d'ora. Una bella azione in questo caso, molte fasi di gioco con la partecipazione sia degli avanti sia dei tre quarti e un doppio cambiamento di fronte con l'azione che è partita sull'out destro, si è spostata su quello sinistro e poi nuovamente verso destra per la meta di Ghiraldini. Sembrava che le cose si potessero mettere bene, anche perché gli italiani erano più convinti nella loro tattica, cercavano di giocare alla mano, c'è stato il pareggio di Bai al 18° e poi c'è stato il patatrac, proprio perché al 25° il mediano di apertura figiano è stato espulso e come è successo 7 giorni fa a Torino, la partita ha preso la strada sbagliata proprio quando l'Italia giocava in superiorità numerica. Abbiamo concesso questa meta ai figiani, che sono riusciti prima a conquistare una punizione dopo che Vachi, uno dei migliori, uno dei migliori dei giocatori del Pacifico, è riuscito a sfruttare una touche e anche lì andare via per una ventina di metri senza essere contrastato. C'è stata una mischia, una bella avanzata della squadra ospite e la meta di De La Zau. Poi per completare l'opera al contrario, a tempo scaduto, abbiamo praticamente regalato due volte la palla alla squadra dell'Oceania. Una volta non siamo riusciti a mandare il pallone in touche e mentre eravamo in inferiorità numerica per l'espulsione di Robertson, dopodiché abbiamo regalato nuovamente un pallone, anche in questo caso c'è stata una penetrazione, un bel break di Tajika Kibau e poi con pallone raccolto da Ratuvo, ma anche in questo caso Italia deficitaria in difesa. Nel secondo tempo, abbiamo già detto, si era aperto con un calcio di Bai, addirittura 15 punti di vantaggio, 25-10, sono poi diventati 8, 25-17, ma da lì il risultato non si è più schiodato. Come ricordavi tu, questa giovane selezione, Carlo, aveva fatto già due tour nel 2004 e nel 2006, giocando 6 partite, le aveva perse tutte. Quest'anno ha giocato in Inghilterra e in Francia e ha perso le partite contro queste nazionali, e insomma è arrivata l'Italia e finalmente per loro è arrivata una vittoria, per noi una sconfitta preoccupante. Oltretutto devo dirti che dal 2000, da quando l'Italia è entrata nel club del Sei Nazioni, veramente nel rugby che conta, non era mai successo che gli azzurri giocassero tre partite, tre test match a novembre, perdendoli tutti e tre. Due brutti segnali. Quindi, vedere l'Italia che cammina come i gamberi non è poi sbagliato, anche dal punto di vista della qualità delle prestazioni. Australia prima, ed era stata una partita sfortunata, tutto sommato per alcuni aspetti convincente, contro un grande avversario. Insomma, c'erano le solite attenuanti generiche, con una vittoria che peraltro quale refrain continuava a sfuggire. Con l'Argentina, un'Italia che comunque aveva fatto dei passi indietro, oggi una brutta figura da analizzare in profondità, perché è un'Italia che ha provato a giocare alla mano, a giocare al largo, come le era stato chiesto anche da Nick Mallett, però con tanti errori, con manovre molto scontate, senza incisività, senza la capacità di spezzare la difesa degli avversari, che non erano evidentemente del livello né di quelli della settimana scorsa né di quelli della settimana prima. Quindi tante pecche per un'Italia che nel primo tempo ha perso anche la sua caratteristica migliore, cioè la sua attitudine difensiva. Quindi un KO da analizzare in profondità, anche perché il tempo stringe. La prossima volta che vedremo dell'azzurro in campo sarà già tempo di Sei Nazioni, Giacomo. E sarà direttamente Inghilterra-Italia, se ci può consolare. L'Inghilterra sta perdendo 35-6 in casa dal Sudafrica, ha appena subito una meta che è stato un assolo fantastico di Jacques Puri, che è caduto un paio di volte, si è rialzato entrambe le volte, è andato a segnare, e quindi 35-6 per il Sudafrica contro l'Inghilterra, che a questo punto probabilmente in vista del sorteggio per i mondiali sarà piazzata in seconda fascia e quindi sarà una mina vagante un po' per tutti. Sì, beh, ma ci consola fino a un certo punto, ho l'impressione già con questo 35-6 che diventa 37-6, quindi questa disfatta dell'Inghilterra in casa sua, peraltro contro i campioni del mondo, ma questo è per noi appunto un rugby dell'altro mondo, un rugby che al momento non ci appartiene. Subito dopo il traffico proveremo ad analizzare insieme i tanti difetti e i pochissimi pregi dell'Italia di oggi, e anche a buttare giù un bilancio di questo trittico che non può che essere in rosso. Insomma, 800240024 per i vostri interventi, messaggi, ripeto, 349-238-6666. Uno è questo: che delusione, una squadra che non riesce mai a giocare se non per 25 minuti, troppo poco. Marco da Roma scrive che Mallett deve andare via. Io non lo so, l'impressione mia, poi sentiamo anche Giacomo Bagnasco, è che comunque sia un'Italia che difetta di... nel calcio si direbbe di piedi buoni, nel rugby possiamo dire di mani buone, perché è un'Italia che comunque non sembra avere le qualità nemmeno tecniche per giocare a livello al piano di sopra, insomma, su cui comunque stanno ad esempio Inghilterra e Sudafrica, nonostante questo 37-6 per i sudafricani. Palla ovale. Direi che prima di sentire l'analisi di Giacomo Bagnasco coinvolgerei anche gli ascoltatori, a partire da Valerio che chiama da Milano. Buonasera. Buonasera, grazie. Grazie a lei. Complimenti. Grazie, dica. Io sono parecchio preoccupato, nel senso che mi sembra una nazionale che ha paura di vincere con le squadre cioè dello stesso livello, come l'Argentina, come la Scozia, e non riesce a vincere neanche con quelle sulla carta molto più deboli come quella di oggi, voglio dire. Nel rugby difficilmente l'Argentina... Beh, Valerio, però vincere contro gli All Black. Lo so, però lei dicendo che l'Argentina è al nostro livello ci fa un regalo, perché l'Argentina è decisamente superiore. L'Argentina lo era al nostro livello, abbiamo lasciato che gli argentini diventassero più forti e non abbiamo fatto nulla. E sono preoccupato anche perché, voglio dire, l'ultima partita vera, Scozia, l'abbiamo vinta agli ultimi minuti con un drop dell'apertura, sì. Ed era una partita che stavamo perdendo quasi su ogni fronte. Sì. Quello mi preoccupa. No, mi preoccupa. A me più che altro preoccupa l'incapacità di questa squadra di fare dei progressi significativi, perché siamo sempre lì. In questo trittico parliamo di regresso. Intanto la brutta sconfitta diventa una figuraccia, c'è un'ultima metà di Abana e siamo 42-6 a Twickenham per il Sudafrica. Giacomo Bagnasco, che dici? Ma guarda, si possono fare tanti ragionamenti, sicuramente sono d'accordo con te, l'Argentina è a un livello superiore al nostro, c'è stato un periodo negli anni 90 in cui eravamo alla pari, però naturalmente qui lo sport si fa con l'attualità e non con la storia, ecco. Tra parentesi, l'Argentina riesce a essere l'Argentina anche, diciamo tra virgolette, cedendo a noi diversi giocatori, quindi l'Argentina è a un livello superiore al nostro. L'Italia di Mallet, secondo me, l'anno scorso ha ottenuto una vittoria sola, però non ha fatto assolutamente un brutto sei nazioni, poteva vincere in Irlanda, ha giocato bene, ha convinto, ha messo alla frusta e in difficoltà diversi avversari. Quello che abbiamo visto in questo momento, secondo me, è un po' un regresso a livello di gioco, probabilmente perché poi le giocate vengono studiate, l'Italia ha poche alternative, soprattutto nei tre quarti, sia come uomini sia come soluzioni tattiche probabilmente, quindi la mischia funziona e forse con l'andare del tempo conterà un po' meno, perché sono state introdotte nuove regole e per esempio non è più possibile, cioè è diventato possibile far crollare le mole, quindi quei carrettini per intenderci che sì, esaltavano, adesso praticamente diventa quasi inutile impostarli e quasi nessuno ci prova. L'Italia in questo momento è in difficoltà, l'anno scorso aveva perso sia due anni fa, direi, per fare un paragone adatto, aveva perso sotto la gestione Berbizier sia dall'Australia sia dall'Argentina nei test di novembre, e forse abbiamo già fatto questo parallelo, e poi ha fatto un ottimo sei nazioni, il migliore della storia. Questa volta la vedo un po' più difficile, intanto perché le altre stanno facendo delle discrete figure in le altre europee in questo momento, soprattutto quelle di seconda fascia, a partire dalla Scozia che sabato scorso ha impegnato parecchio il Sudafrica che oggi ha battuto, sta battendo, strabattendo l'Inghilterra. Finita 6-42 per i sudafricani, e questo asfaltati. È gravissimo anche per Martin Johnson, che è il nuovo manager dell'Inghilterra, ed è partito veramente male. L'Inghilterra ha battuto i Pacific Islanders, però poi ha perso 28-14 dall'Australia, sì. E in questa che, se vogliamo, è la rivincita della finale di Coppa del Mondo dell'anno scorso, è stata asfaltata, come dici tu, mi sembra il termine giusto. Tornando all'Italia, l'Italia è una squadra in difficoltà, direi che questi Pacific Islanders potevano in un certo senso rilanciarci. Dobbiamo anche dire però che a livello individuale questi giocatori sono dei giocatori sì. forti. No, no, questo, ma averne di tre quarti come quelli che avevamo contro oggi, ma voglio dire, erano comunque giocatori capaci di inventarsi il break, e ne abbiamo visti tanti oggi, pur avendo l'Italia mantenuto il possesso della palla per tanto tempo, soprattutto nella ripresa. Pur avendo l'Italia provato a giocare alla mano, insomma, questi quando avevano il pallone ripartivano, facevano il buco e noi eravamo sempre in difficoltà. È quello che ci manca. Probabilmente, anche qui facendo un paragone calcistico, è una squadra di buoni stopper, di grandi terzini, ma è una squadra nella quale centrocampisti e attaccanti mancano, quella italiana. Sentiamo anche Marco da Milano, buonasera. Sì, buonasera a lei. Io mi trovo concorde con quanto state dicendo. Volevo lanciare una semplice provocazione. Sentivo prima anche qualche nostro amico che chiedeva che Mallet insomma si dimetta, se ne vada. Vorrei chiedere, ma come mai questo sport, che pure trova tantissimi sostenitori, siamo circa 60.000 che siamo patiti di questo sport tanto nobile, perché non ha, voglio dire, spazio tanto negli reportage giornalistici settimanali, quanto per esempio nell'educazione diciamo delle nostre nuove leve. Io sono stato per molti anni fuori dall'Italia e vi posso garantire che in Francia, per esempio, in una qualunque scuola vedi tantissimi ragazzi giocare a rugby. Da noi manca questa disciplina, che è altamente formativa, sì, perché richiede sacrificio. Marco, però purtroppo da noi ne mancano anche tutte le altre, non solo questa, eh. Manca a livello scolastico, se vogliamo, ma qui rischiamo di scoperchiare un vaso di Pandora che ci porterebbe troppo lontano. Lei ha ragione, ma insomma, dal punto di vista culturale, il rugby ha questo spazio in Italia, uno spazio che la nazionale ha allargato moltissimo, ma anche a livello di base, perché i numeri di tesserati, Giacomo Bagnasco lo sa meglio di me, può confermare, sono in crescita. Purtroppo Giacomo prima faceva un parallelo con la Scozia, lì il ricambio ad alto livello è continuo, quindi la Scozia può giocare, può avere 3-4 stagioni, come il Galles d'altra parte, 3-4 stagioni di basso profilo, ma è un ricambio continuo, arrivano sempre nuove leve. Da noi invece non accade proprio la stessa cosa, Giacomo. Sì, soprattutto il Galles è veramente, ora è facile dirlo come paragone rispetto alle tradizioni economiche di quel paese, è veramente una miniera di giocatori, lo si è definito a lungo la fabbrica dei mediani di apertura, sì. Ad esempio, anche adesso hanno degli imbarazzi della scelta che noi vorremmo tanto provare almeno una volta. L'ascoltatore parlava di queste lacune, io direi che per certi versi sono lacune che sono state in parte colmate, se vogliamo, perché quando gioca la nazionale, questa è stata la tua risposta corretta, Carlo, quando gioca la nazionale mi pare che ormai i mezzi di informazione ci siano. Dal punto di vista dei tesserati sono aumentati, la federazione, gli ultimi numeri che ha dato, è 67.000 tesserati e tesserate. E questo potrebbe dire e non dire, perché poi bisogna vedere i risultati sul campo, però sappiamo che in particolare negli ultimi anni ci sono i vivai che stanno veramente esplodendo, ci sono squadre che di volta in volta devono studiare il modo, società che devono studiare il modo di schierare anche a ogni torneo, provare a schierare più di un under 9, più di un under 11, ci sono tantissimi bambini che si rivolgono al rugby e tantissime famiglie, tantissimi genitori che si informano per cercare di portare i loro bambini a fare questo sport, anche certo. Se poi non è facilissimo, non certo. È che sia uno certo. Sport radicato come il calcio e ci sia. Però vedi tesserata. Giacomo, questi tesserati, queste famiglie, questi bambini si innestano in un movimento, magari sarà anche cinico il discorso, in un movimento aperto dal vertice della piramide, cioè aperto dalla nazionale. Sicuramente. È chiaro che se la nazionale però a questo punto servono i risultati, Giacomo, perché grande simpatia, grande passione, anche trendy la nazionale con i suoi giocatori, però a lungo andare rischiamo di sai come sono gli italiani, no? Di far stancare il grande pubblico, perché servono i risultati, siamo in Italia. Questo è vero, Carlo, però è anche vero che questo aumento importante dei vivai probabilmente può portarci a sperare, non nel breve ma nel medio periodo, di cominciare ad avere anche noi quei ricambi che nelle nazioni britanniche sono normali. Intanto, cambiando un attimo ragionamento, possiamo dire che a 5 minuti dalla fine a Dublino l'Irlanda sta prevalendo 12-3 sull'Argentina. Partita vedi, a proposito. Dura, niente mete, ma comunque insomma l'Argentina è sempre l'Argentina, ha perso 12-6 contro la Francia, sta perdendo 12-3 dall'Irlanda, direi che non sono certo batosta, è una squadra che fondamentalmente si conferma tra le migliori al mondo. Certo. E certo contro di noi non ha giocato probabilmente la sua migliore partita, e qui i rimpianti aumentano, in settimana si sono lette tante analisi e nel rugby risulta quasi impossibile dominare con la mischia, almeno per un periodo di tempo abbastanza lungo, e poi perdere la partita. Sì, no, ma è così, però l'altro lato di quella partita è il discorso che facevamo prima per Galles, per la Scozia, ovviamente va la maggior ragione anche per l'Irlanda. Finisce magari una generazione di giocatori, magari un paio d'anni di non alto profilo, ne entra un'altra e diventa una squadra in grado di competere per i Sei Nazioni, per la vittoria finale nei Sei certo. Nazioni. da noi le facce sono quelle, meno male che ci sono, però vedi come non riusciamo a dare continuità alla crescita, continuiamo su questa altalena, anche episodica se vuoi. Parliamo anche con un altro ascoltatore da Vicenza, Beniamino, buonasera. Sì, pronto, buonasera. Dica. Io volevo continuare questo discorso sul parallelo tra il movimento rugbyistico che sta crescendo in Italia e i risultati della nazionale. Intanto devo dire, io sto tornando adesso, ho portato mio figlio a giocare, a fare l'allenamento del sabato pomeriggio, e devo dire che in questi anni si è vissuto un continuo incremento di bambini che vengono portati al campo per giocare a rugby, sì. Secondo me i valori di questo sport stanno crescendo e sono riconosciuti da tutti. Quando ero piccolo io c'erano i genitori, mia mamma magari, o altri genitori che cercavano in tutti i modi di dissuadere i propri figli ad andare a giocare a rugby perché lo vedevano come uno sport pericoloso. Adesso sono le mamme che portano i bambini al campo perché vedono e riconoscono i valori di questo sport importanti. Certo. Quindi questo aspetto. Per la partita di oggi sembra che sia giusto il discorso della difficoltà che potrà incontrare la nazionale a breve per il discorso, per la difficoltà del gioco chiuso che adesso con le regole nuove un po' ci penalizza, in quanto la forza della nazionale italiana in questi anni è stata proprio lì, nella possibilità di fare i rolling ball seguenti alla push e poter avanzare lì vicino al regruppamento. Dobbiamo adattarci, e abbiamo dei giocatori forti che lo possono fare, secondo me. Io sono fiducioso, sono convinto che i risultati arriveranno. Abbiamo risolto due problemi importanti, secondo me, dal allenatore Ghilardini trovato l'anno scorso, sì. E soprattutto è marcato all'apertura che... Sì, marcato l'apertura anche secondo me. Grazie Beniamino, adesso dobbiamo fermarci un attimo dopo aver chiuso il discorso con Giacomo Bagnasco. Tanti gli argomenti trattati, ovviamente poi ci ritorneremo nelle prossime settimane, però numero 10 possiamo dire problema grosso modo risolto, quello del numero 9 mi sembra non ancora. Sulla fiducia per il futuro, insomma, vediamo, perché proprio per il discorso che si faceva, cioè un'Italia che faceva del gioco chiuso la sua forza, i regolamenti ovviamente come nel calcio vogliono favorire gli attaccanti, e per noi paese rugbisticamente di difensori, per tornare al parallelo calcistico, questo non è esattamente un buon segno, no Giacomo? Sì, in questo momento c'è una forza prevalente probabilmente dei paesi dell'emisfero sud, quindi queste nuove regole piacciono a loro e piacciono molto meno a noi. Oltretutto loro comunque sia hanno una prevalenza anche nel ranking mondiale, mettono le prime tre, le prime quattro loro squadre ai primi quattro posti. Abbiamo visto anche in Italia-Australia un arbitro neozelandese che quasi si disinteressava di quello che succedeva in mischia chiusa. Qui stiamo veramente arrivando a una situazione che non è sicuramente auspicabile, ecco, perché la mischia deve rimanere quello che è sempre stato, deve comunque essere una fase importante del gioco. Per quanto riguarda i giocatori, Marcato sì, ha giocato molto bene con l'Australia, ha lasciato forse qualche dubbio in più nelle altre due partite. Ci sono dei giovani che stanno venendo fuori, direi che sul mediano di mischia sono d'accordo con te, probabilmente il più forte di tutti è Travagli e forse ha qualche problema di carattere, di autoconvinzione. L'estremo lo stiamo cercando, e se possiamo dire ancora una cosa, abbiamo anche sentito la telefonata, il messaggino dell'ascoltatore, dice Mallet deve andarsene, ecco, in questo momento io credo che non sarebbe una grande medicina. No, no, ecco, non lo sarebbe assolutamente. La cacciata di un CT che viene considerato comunque uno dei tecnici più preparati che ci sono. Con quello che abbiamo in casa, e ricordiamoci che comunque con questi giocatori Sei Nazioni dell'anno scorso non è stato certo da buttare via. No, non lo è stato, certo il prossimo sarà particolarmente importante, anche proprio per capire quale strada abbiamo preso, perché se è una strada di sebbene lenti progressi, oppure se è una strada di continui saliscendi. Grazie Giacomo, a sabato prossimo. Grazie a voi, intanto arriva la meta dell'Irlanda contro l'Argentina, l'unica meta di questo incontro. L'Irlanda a questo punto si porta nettamente in vantaggio. A proposito del Sei Nazioni che verrà e che sarà tutt'altro che semplice. Palla ovale. Ripartiamo da Massimo Dalagnano, Simona da Milano. Buonasera Massimo. Buonasera, sono un amante del rugby, sì, a livelli incredibili, nel senso che ho giocato 6 anni, sì, e adesso sono anni che non gioco più, ma lo seguo sempre soffrendo, questo è il problema. Che il rugby italiano si segue soffrendo, sì, nel senso che sono andato a Torino a vedere la partita contro l'Argentina ed è stata veramente quella una sofferenza pazzesca, sì, perché abbiamo giocato secondo me malissimo. Sì. Quello che mi manca parecchio è la fantasia, secondo me, nei tre quarti, ma quello è sempre stato un problema nostro, sì, che abbiamo un pacchetto fantastico. Ma la fantasia nel giocare tutta una partita sempre nello stesso modo e quindi essere molto arginabili, e senza le cose che sono nate in questa partita, per esempio, sono nate da Parisse, ha fatto una cosa fantastica, vero, e dopodiché delle volte viene da dire su molte partite abbiamo fatto questa meta perché siamo fortunati, non è bello. No, ma magari fortunati no, facciamo magari mete corali, mete di sfondamento, eccetera. Poi i grandi giocatori che abbiamo si contano sulle dita di una mano, e lei lo sa meglio di me. Uno è quello che ha citato e l'altro è il suo compagno che ha raccolto quel passaggio, non si è fatto scivolare la palla dalle mani come un sacco di volte capita di succedere, soprattutto in partite che l'Italia prova a giocare alla mano. Come oggi, insomma, mi sembra un'Italia che proprio faccia fatica da un punto di vista tecnico più che tattico. Ad esempio, un ascoltatore, Carlo, che scrive: secondo me mancano le idee chiare, schieramento poco profondo e palle lente tra i centri vuol dire poche conquiste, tanta fatica degli avanti sprecata. Tutto vero. Insomma, ci mancano le mani buone. Nel calcio sarebbero i piedi buoni, i centrocampisti, i fantasisti, i grandi attaccanti. Nel rugby italiano mancano. Abbiamo dei grandi interditori, quello sì, e quello proviamo a far valere. Le armi che abbiamo sono quelle lì, non sono certo quelle del trattamento della palla dei tre quarti, che riescono a inventarsi qualcosa, come dice il nostro amico Massimo. Da Massimo a Simona, buonasera. Sì, buonasera. Sono anch'io un amante del rugby, nonostante non abbia mai giocato, e non ho intenzione di entrare di cominciare adesso della partita di oggi o che, sì, cosa manca alla nazionale italiana. Volevo riprendere un attimo il concetto di Marco, ma 4 telefonate fa. Sì, lo ricordo. Io quello che capisco di rugby è che il problema è un problema di massa critica, che è vero, come qualcuno ha sottolineato nella vostra trasmissione, probabilmente legato a tutti gli sport in Italia, perché non c'è proselitismo nelle scuole, ma nel rugby è assolutamente marcato, cioè marcato, più sostanziale che non in altri tipi di sport. Uno sport che non ha diffusione, non ci sono impianti sufficienti. Io sono milanese e comunque il rugby a Milano vuol dire vivere a Città degli Studi. Sì, certo. Ecco, certo. Tutto qua. Quindi problema, secondo me, è la massa critica. Però Simona, vede, la massa critica che può essere trasferita a tutti gli altri sport, perché lei saprà bene, credo, visto come sentito come parla, che il problema degli impianti è un problema generalizzato o generalizzabile, no? Sappiamo bene come spesso l'ora di ginnastica nelle scuole sia in palestre improvvisate, ricavate, discutibili, criticabili o censurabili, insomma. Quindi è un problema. Se parliamo di penetrazione dello sport nella scuola, è un problema generalizzabile, perché io non credo che le ore di ginnastica di oggi siano molto diverse dall'ora di ginnastica di quando eravamo bambini noi, e sono già passati tanti anni in cui l'ora di ginnastica si riduceva alla partita di calcetto nel campo da pallamano. Quindi credo sia un discorso generalizzabile per come è trattato oggi lo sport nelle nostre scuole. Simona, punto 1, ok, lo sport in generale. Passiamo poi al rugby. Il passiamo poi al rugby. Non ha diffusione, non ha cultura. È uno sport inventato dagli inglesi, esportato nei paesi che loro hanno conquistato, sì, e poi ci sono adesso dei paesi emergenti che si affacciano. L'Argentina ha una storia di rugby come l'Italia. Come mai loro vanno avanti e noi no? Perché attorno sulla massa critica, che non è solamente gli impianti, adesso non mi può chiudere la bocca perché a Milano c'è solo il Giuriati, è un problema di investimenti, di fare il salto di qualità. Noi non abbiamo neanche l'agonismo, come facciamo ad avere il professionismo? Sì, vabbè, sì. Comunque basta, con questo ho detto tutto. Io comunque mi guardo bene da chiudere la bocca, Simona, anzi abbiamo chiacchierato amabilmente a lungo, direi, però insomma quello che lei dice è vero, l'unica cosa che mi permetto di dire è che è un problema che riguarda il rugby, ma non solo quello, insomma. La crescita del rugby italiano si innesta sull'onda aperta da questa nazionale. Il movimento, i numeri dicono che il movimento sta crescendo, da lì a parlare di impianti all'altezza ce ne passa, e lo sappiamo bene, come lei sottolinea. Io adesso resterei a Milano, però per capire dopo Inter-Juventus, ma prima capiamo la maratona di Milano che si corre domani. Giorgio Rondelli, buonasera. Tutti gli ascoltatori di Radio 24. Pare che faccia domani, il pericolo sia quello del vento freddo, oltre che della strada. Eh sì, soprattutto, Carlo, il vento, perché poi il freddo sì, può essere qualcosa che penalizza, però il vento può veramente massacrare la fatica dei corridori. Una maratona di Milano che in pratica è arrivata alla nona edizione, saranno quasi 6.000 i partenti. Negli ultimi due anni si è un po' fermata l'emorragia, quella del 2006, quando si era arrivati soltanto a 2-3.000 partecipanti, su una maratona di Milano che è ripartita soprattutto cercando di far affezionare questa gara agli appassionati milanesi, comunque ai milanesi in generale, come è la Stramilano. Impresa un po' difficile, e vediamo se la gara di domani riuscirà un pochettino a trovare questa fusione. Insomma. Quanto vale tecnicamente la maratona di Milano adesso? Ma quanto vale? Diciamo, c'è sempre un gruppo di africani, ci saranno poi il nostro Danilo Goffi che è alla ricerca di un risultato intorno alle 2 ore 11, 2 ore 12, ci sarà il portoghese Ornelias che ha vinto 3 anni fa in campo femminile, da seguire assolutamente, le due azzurre, la Iozia, ma soprattutto la Incerti, che è stata la nostra migliore atleta a Pechino, ed è un'atleta ancora abbastanza giovane, 28 anni, forse la miglior promessa, visto che i maschi con la chiusura di Baldini siamo veramente messi male, che su cui si può puntare in un futuro a medio termine. E Milano in questo momento in Italia si colloca come la maratona numero 4, dopo Roma 12.000 presenze, Firenze 9.000 e poi Venezia. Certamente queste tre città che ho nominato, anche dal punto di vista così generale del turismo, offrono qualcosa, certo, di più. Certo. E quindi Milano deve ancora un po' soffrire, ma diciamo, ripeto, negli ultimi due anni è riuscita a tornare su una cifra abbastanza importante. Su una cifra 6.000 partecipanti, sì, insomma. Certo, chi è abituato a vedere New York 40.000, Londra, ma così è tutta un'altra cosa, ma Milano, tu lo sai meglio di me, nello sport devi veramente offrire il massimo come cast. L'abbiamo visto nel basket, l'abbiamo visto nel calcio, l'abbiamo visto nella pallacanestro. Lo vediamo ovunque, caro Giorgio. Milano adora le stelle, quando gli offri qualcosa di meno è sempre fredda, fa fatica ad innamorarsi anche della maratona, anche se questo feeling mi sembra appunto stia un po' tornando. Grazie Giorgio, a presto. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie a Giorgio Rondelli. Palla ovale. Sono le 5.47, però già i notiziari sul traffico, come avete sentito, battono il tam tam per quelli che si avvicinano a San Siro. Questa sera sarà tutto esaurito, 80.076. Restiamo a Milano e cominciamo a parlare di questo super match. Su Repubblica di oggi c'è inviato Andrea Sorrentino che mette i brividi ai tifosi della Juventus perché descrive l'allenamento di ieri di Ibrahimovic, il modo in cui si è mosso, il modo in cui ha segnato un gol di tacco, insomma, pericolo pubblico numero uno, se c'era bisogno di un'ulteriore conferma. Andrea, buonasera. Buonasera Carlo. Ragazzo non sta malissimo, eh? No, arrivano insomma per la Juve bruttissime notizie da Piano Gentile, perché davvero ieri poi c'è stato anche il pubblico presente, perché Mourinho ha aperto l'allenamento ai tifosi, hanno potuto tutti constatare lo stato di forma di Ibrahimovic, che veramente ha sparso magie in questa mezz'oretta di partitella, tra cui anche un gol di tacco al volo con pallonetto sul portiere. Già vista questa, mi sembra averla già vista questa. Infatti, no? L'ha già fatta a Porto in Italia-Svezia nel 2004. L'ha fatta anche ieri, ha fatto anche altre cose buone. Del resto, l'Ibrahimovic di Palermo ce lo ricordiamo benissimo, perché è una questione di una settimana fa appena. Dopo Palermo, l'infaticabile Ibrahimovic, che quest'anno ha giocato tutte le partite ufficiali dell'Inter, come sappiamo, è stato fatto riposare dalla nazionale svedese. A quel punto Mourinho gli ha anche concesso 2-3 giorni proprio di relax totale. È tornato ad allenarsi giovedì e pare sia veramente in grandissima forma. Mourinho l'ha gestito bene, l'ha messo in frigorifero. Ma ti ricordi prima di Palermo, no? Quando lui ha detto: Muntari, vabbè, rientra e gioca, Muntari più altri 10. Su Ibrahimovic non si discute mai. Ibrahimovic più altri 9. Chi lo leva questo dal campo? Certo, non Mourinho. La stanchezza non è infortunio, disse quel giorno Mourinho. Ibrahimovic sembrava prima di Palermo in leggera flessione, poi però sono arrivati due gol. Ma lui stesso aveva detto di essere molto stanco, lo aveva detto alla fine della partita con l'Udinese, aveva detto: guardate, vado a casa perché sono veramente stremato. Infatti non aveva giocato benissimo quella partita perché era sembrato molto in difficoltà. E invece ha giocato a Palermo la 17ª partita ufficiale su 17 dell'Inter di quest'anno e l'ha giocata tirando quelle due mine da fuori area che hanno fissato il risultato. Io credo che stasera ancora vedremo un ottimo Ibrahimovic, che probabilmente cercherà di segnare questo suo primo gol da ex alla Juventus. Ma se non ci riuscirà, qualcosa di buono combinerà in ogni caso, perché in questo momento mi sembra veramente il giocatore più decisivo del campionato. Non c'è dubbio. Informazione di servizio, hai già conferme della presenza di Balotelli vicino a Ibrahimovic? Guarda, ne stavo cercando di conferme poco prima della vostra telefonata, ancora non trapela nulla, perché Mourinho veramente queste partite importanti, anche se lui dice che sono tutte importanti, ma in quelle un po' più importanti crea una cortina di mistero fittissimo sulla formazione, e quindi ancora non abbiamo certezze. Rimaniamo a quello che sapevamo ieri: dovrebbe esserci Balotelli, non si sa se proprio a fianco di Ibrahimovic oppure un po' defilato sulla sinistra per un ipotetico 4-5-1 o 4-1-4-1, che dir si voglia, come vogliamo scriverla, la scriviamo. Che Juventus ti aspetti invece? Juventus che io mi aspetto da battaglia assoluta. La Juventus sta benissimo e se c'è un momento sbagliato per affrontarla è questo, Andrea. Viene da 7 vittorie consecutive, come sappiamo tutti. Tra l'altro, l'ultima volta che ci siamo parlati, io mi ricordo benissimo, era il pomeriggio prima di Napoli-Juventus, un mese e mezzo fa, e stavamo quasi celebrando il funerale di Ranieri. E si parlava, insomma, cosa succederà, ci chiedevamo, se stasera la Juve perde contro il Napoli. Insomma, tra le varie ipotesi c'era questa di Ranieri un po' così traballante. Un mese e mezzo dopo lo scenario è completamente cambiato, abbiamo assistito a delle partite di una Juventus d'acciaio praticamente, che però, ecco, dopo 7 vittorie consecutive, ottenute molte anche sui nervi, sulla rabbia, sulla grinta, sulla verve di Del Piero, che davvero ha trascinato da solo questa Juventus, dopo 7 vittorie così potrebbe anche arrivare una piccola flessione, una piccola battuta d'arresto. Ma adesso io non voglio dirlo per spaventare i tifosi della Juve o per farli correre agli amuleti, ma ci sta che magari stasera la Juve possa avere molte più difficoltà rispetto alle ultime partite. Tra l'altro l'Inter non batte la Juve in casa da 4 anni e mezzo. Quindi tu dici numeri sono numeri, per quel numeri, che valgono. Sì, numeri, sensazioni, aria che tira. Io vedo un Inter favorita stasera. Un Inter che ha voglia, favorita anche per i bookmaker, leggevo in settimana che insomma tutti a correre, a scommettere sull'Inter, vuoi per i numeri, vuoi per l'Inter che cerca una vittoria di grande prestigio, di grande vetrina in questo avvio di stagione in cui ha giocato bene a Roma, ha vinto quella partita e poi tra risultati sempre positivi ma tra chiaroscuri che non hanno soddisfatto alla fine granché, no? Anche perché poi se vogliamo considerare questo campionato, per quanto riguarda la lotta allo scudetto, ristretta a 3 squadre, cioè Inter, Milan e Juve, credo che da queste 3 non si possa uscire molto. Ci sono quindi due sconti diretti possibili per l'Inter, uno col Milan e uno con la Juventus. Quello col Milan l'ha perso. Sì. Questa è la seconda partita più importante della stagione. L'Inter, se non la vincesse, seppure la giocasse un po' così in modo deludente, non sarebbe un buon biglietto da visita per il certo. futuro. Quindi secondo me l'Inter stasera sarà molto migliore di quella vista col Milan. Probabilmente anche Mourinho ha fatto un po' tesoro di qualche erroruccio commesso in passato. Sì. Facciamoci caso, lui ultimamente ha riflettuto ad alta voce, ha fatto questa considerazione: mi ha colpito del calcio italiano la grande capacità tattica degli allenatori, il loro adattarsi immediatamente all'avversario che affrontano. Ed è come se Mourinho abbia preso qualcosa già dagli allenatori italiani e stia cercando adesso lui spesso di adattarsi all'avversario, e almeno sì, in partenza. Sì. Domenica, anzi sabato scorso a Palermo, si è opposto al Palermo con lo stesso modulo del Palermo. Questa sera è probabile che riveda l'Inter con un 4-4-2 molto simile a quello della Juventus, quindi forse è un Mourinho che sta cambiando lentamente. Che sta imparando che lui da persona intelligente qual è. Grazie Andrea, buona partita. A voi, ciao. Grazie ad Andrea Sorrentino, inviato di Repubblica. Io vi saluto con i risultati della 15ª di Serie B, che sono questi: Treviso batte Empoli 2-0, quindi la capolista che cade. Continua invece la marcia dell'altra capolista, che di misura con gol di Sforzini batte 1-0 la Triestina, quindi Rimini Bari 1-1, il Brescia batte 2-1 il Vicenza, il Frosinone batte 2-0 l'Ascoli, Albino Leffe batte Salernitana 1-0, Parma Livorno 0-0, il Cittadella che vince 3-0 sul campo del Pisa, il Mantova che stava vincendo 1-0 ad Ancona è rimontato e superato 2-1 per l'Ancona sul Mantova di Costa Curta. Questi risultati della 15ª di B: Grosseto 28, Empoli Bari 25, Sassuolo Livorno 24, Parma Triestina, Brescia 23 punti, questa è la testa della classifica. Chiudiamo qui il programma, grazie a Gigi Borghi per il lavoro in redazione, a Fabio Cantadori in regia. Tempo di Sport domani pomeriggio dalle 17 alle 19, tanto per cominciare. A domani.